Sono le 16. Hello everybody, this is Fergal Kavanagh and you're very welcome to questa edizione of Remake Domenica Pomeriggio, una domenica molto caldo, perciò iniziamo con un po' di musica molto molto calma, dove ascoltiamo un vecchio brano e poi una nuova versione, un cover, e questo è un classico del film Ghost, e sono The Righteous Brothers and Unchained Melody. Mette proprio i brividi questo pezzo. Avete riconosciuto la voce? It's Bono Vox from U2. Questa è una versione di Unchained Melody che ha fatto gli U2 nel 1988. È stato sul loro CD B-side All I Want Is You. Grande, grande proprio. E prima di quello abbiamo ascoltato l'originale From the Righteous Brothers dal 1965. Un grande hit per loro, Unchained Melody, che pure conoscete dal film Ghost con Patrick Swayze e Demi Moore. Allora ragazzi, sì che fa caldo, però facciamo finta un attimo che sia Natale, no? And here's the voice of Wham with Last Christmas. Wow, che versione rap di questo gran pezzo, Last Christmas. Sono le Rap All Stars featuring Leroy Daniels. E prima di quello abbiamo sentito l'originale from George Michael insieme a Wham, Last Christmas, che è uscito nel 1984 e non è stato un numero uno per loro, semplicemente perché c'era Band Aid con Do They Know It's Christmas al numero uno. Quindi siccome quello era un grande, grande successo, Last Christmas è come fosse al numero uno, diciamo, anche se è acquistato solo il numero 2. Ok, andando avanti, grande l'album Kick degli INXS. Questo è stato forse il loro più grande hit. Si intitola Need You Tonight. Big Punisher insieme a Benny Mann, Makes Me Sweat è il titolo del brano che usa un campione di Need You Tonight from INXS. È una coincidenza per quelli che hanno registrato questo brano, sia Big Punisher che Michael Hutchins sono morto di un infarto e chissà, speriamo che non sia la destina a registrare questa canzone perché è un bel bel brano. INXS from the album Kick del 1987, loro sono dell'Australia e rimaniamo in zona, andiamo in Nuova Zelanda dove troviamo i Crowded House. Here's Don't Dream It's Over. Un grande, grande canzone, That's Dove with Dream It's Over. Il remix è stato fatto da un tipo di nome K-Class e questo è proprio un classico Dream It's Over perché pure l'italiano, il vostro italiano, Antonello Venditti l'ha registrato nel 91, Alta Marea, il titolo che l'ha dato lui, e questo avete sentito prima. E per iniziare tutto questo traccia avete sentito l'originale dell'86, i fratelli Neil and Tim Finn insieme, Crowded House il nome del gruppo e Don't Dream It's Over il nome del pezzo. Allora ragazzi, un po' di disco music, ci siamo? This is Anita Ward insieme a Ringo Brothers, suonatemi a campanella, ring my bell. The Sound of Will Smith nel suo vecchio complesso, DJ Jazzy Jeff and the Fresh Prince. Il Fresh Prince sarebbe Will Smith. E questo è stato un grande successo per loro, It's Ring My Bell. E prima di questo abbiamo ascoltato l'originale del 1974. L'originale per dire, perché noi abbiamo ascoltato una versione remixata dai Ringo Brothers, Anita Ward and Ring My Bell. Grande, grande proprio. Allora ragazzi, dalla disco music alla soul music. This is the sound of Marvin Gaye and Let's Get It On. Oh, il grande, grande Marvin Gaye che ha scritto questo pezzo, Let's Get It On. E voi avete ascoltato adesso Boys to Men, che l'hanno registrato per un album distribuito a Marvin Gaye, Inner City Blues, nel 1995. Grande, grande. E prima di quello abbiamo ascoltato l'originale, which was from Marvin Gaye, of course. You're listening to Remake questa domenica pomeriggio. Ascoltiamo vecchia musica e poi una versione con un tocco moderno. E ragazzi, Womack and Womack, la storia della musica. Proprio, here's Teardrops. Nel 1993 Elton John ha registrato un album di nome Duets dove lui ha cantato con un sacco di artisti, proprio bello quell'album. E questo che abbiamo ascoltato questo pomeriggio on Remake è insieme a K.D. Lang, Elton John and K.D. Lang insieme facendo Teardrops. E prima di quello abbiamo ascoltato dal 1988 i Womack and Womack with the loro version of Teardrops. This is Remake, come ho detto, fino alle ore 18 e adesso ascoltiamo un grande successo sia dagli anni 60 che gli anni 80. It's You Can't Hurry Love and here's the Supremes. Grande successo for Phil Collins from the album Hello I Must Be Going 1982, You Can't Hurry Love. E mi ricordo quando ero ragazzo ad ascoltare questo pezzo, a ballare nel mio salotto. All'epoca non sapevo che era un cover di The Supremes, Diana Ross insieme ai Supremes, and You Can't Hurry Love, ma grande grande dal 1966. E noi abbiamo ascoltato tutti e due insieme on Remake questo domenica pomeriggio. Adesso ragazzi sono le 17. Paul Weller and the Mojo Smoking Band insieme on the album Help Come Together. Questo Help è l'album che è uscito qualche anno fa per aiutare la Bosnia, e lì ci sono un sacco di cover, e ascoltiamo anche altre cover questo pomeriggio. Ma pure su questa versione di Come Together c'è anche la voce di Paul McCartney e anche la chitarra di Noel Gallagher degli Oasis, quindi gran bella versione. È anche storico perché Paul McCartney in questo caso ha partecipato ad un disco che è stato registrato originalmente dai Beatles, che John Lennon cantava, e quindi questo è proprio un cover, una versione storica. Sì, l'originale viene dall'album Abbey Road del 1969, The Beatles, e in mezzo lì abbiamo ascoltato una versione cover pure dai Hothouse Flowers, un gruppo irlandese, molto diverso quello. E un piccolo storia per Come Together: all'epoca John Lennon aveva rubato un paio di righi da un brano di Chuck Berry, e siccome il publisher di Chuck Berry volevano fare la causa, invece di chiedere i royalties, cioè i soldi guadagnati dal disco, loro gli hanno chiesto di registrare un altro paio di brani per un album. Questo l'ha fatto, però poi Michael Jackson ha fatto un cover di Come Together e ha fatto un sacco di soldi, e questo i publishers di Chuck Berry sono rimasti male perché avrebbero potuto fare un sacco di soldi. Vabbè ragazzi, è così che va la vita. You're listening to Remake questa domenica pomeriggio. My name is Fergal Kavanagh e non c'è la pioggia fuori. Però, nonostante questo, ascoltiamo Raindrops Keep Falling on My Head from Ben J. Thomas. Un versione un po' più rock, diciamo, di Raindrops Keep Falling on My Head del gruppo gallese Manic Street Preachers. E sì, ragazzi, vi ho promesso che ascolteremo un altro pezzo dall'album Help, e questo era Manic Street Preachers with Raindrops Keep Falling on My Head, e l'originale è stato lì oppure di Ben J. Thomas del 1969 dal film Butch Cassidy and the Sundance Kid. Proprio un gran bel classico questo brano. Ok, a proposito di classici, Bob Dylan, quasi ogni brano che è fatto è diventato un classico, e noi adesso ascoltiamo Chimes of Freedom from the album Another Side of Bob Dylan. Bruce Springsteen with Chimes of Freedom, una versione dal vivo lì, proprio bello. E all'epoca, negli anni 70, diciamo, c'erano quelli che stavano cercando il nuovo Bob Dylan, e Bruce Springsteen è stato un candidato per il titolo Il Nuovo Bob Dylan. Comunque, anche se politicamente sono molto vicini, mi pare che musicalmente sono lontani, anche se si incontrano molto su questo brano Chimes of Freedom. E poi tutti e due sono stati scoperti dal stesso tipo, John Hammond, nel giro di 10 anni di differenza, diciamo. Comunque grande grande questo pezzo. E continuando con la musica, allora facciamo un tappo in Irlanda che può fare solo piacere a me. Here from the album Octong Baby, it's U2 with One. Un classico proprio questo pezzo, e noi abbiamo ascoltato 3 versioni di One, cioè 3 becomes One. The first one was U2 from the album Octong Baby nel 1992, e poi una versione live che si chiamano Automatic Baby, quelle che suonano, però in effetti sono i musicisti degli U2 con la voce di Michael Stipe dai Rem, bello proprio. E abbiamo chiuso con Johnny Cash, il mitico Johnny Cash, e sua versione del 2000 of One from his album American Recordings. You're listening to Remake, ragazzi, fino alle ore 18, listening to originals, covers, remixes e tutte le belle cose, ma la vita è proprio bella con la musica così. This is Black with Wonderful Life. Sì che la vita è bella, e questo ci dicono pure Giuliano Palma and the Blue Beaters. Giuliano Palma è praticamente il cantante di Casino Royale, e questi componenti pure dei Blue Beaters consistono di Africa Unite, pure Les Fratelles Soledad, un gruppo dei gruppi italiani che hanno fatto proprio questa bellissima versione of Wonderful Life, l'originale del 1987 from l'inglese Black. Bello bello. Allora ragazzi, mi sembra che sarebbe opportuno adesso ascoltare un po' di musica messicana, un po' di chitarra. Yes? Ok, here's Santana. Due versioni di Maria Maria from Santana from his album Supernatural. Abbiamo ascoltato l'originale e poi abbiamo ascoltato un remix fatto dai Wyclef Jean. Ma quel Wyclef Jean è dappertutto e perché no, perché fa sempre bel lavoro. Quindi ragazzi, quando vedete il suo nome su un disco non potete sbagliare a comprarlo. E lui è stato molto influenzato, ha detto in alcune interviste, dal grande Jimi Hendrix. Allora mi sembra l'opportunità di ascoltare Purple Haze from his first album Are You Experienced, 1967, here he is. Oh, una versione molto strana questa, no? That's The Cure with their version of Purple Haze, il grande pezzo da Jimi Hendrix. E loro l'hanno registrato, questa versione, per una radio inglese alcuni anni fa e non è mai uscito ufficialmente come singolo, però noi l'abbiamo proposto questo pomeriggio un remake, come un remake dell'originale di Jimi Hendrix, che viene dall'album Are You Experienced del 1967, il suo primo brano sul disco. Il che se ci pensi vuol dire che avevamo un maestro dal giorno 1, from day 1. E questo lyric, i testi di questa canzone sono abbastanza belli, dice excuse me while I kiss the sky, cioè scusami mentre bacio il cielo, però io l'avevo capito sempre excuse me while I kiss the sky, scusami mentre bacio il mio amico qua. Ho detto ma Jimmy che stai facendo? Allora remake di domenica pomeriggio, oh siamo un po' come i cowboy ancora nel Wild West, pure Jamiroquai, oh problemi di pronunciare il nome, it's Jerry McQuay and Space Cowboy. Oh, Jerry McQuay, tutto remixato, it's Space Cowboy. La versione originale viene dal suo album The Return of the Space Cowboy del 1995 e questo abbiamo ascoltato all'inizio, però poi abbiamo continuato con il remix che è stato fatto da David Morales. Bello, proprio bello, è proprio un bel modo di chiudere il nostro programma di remake dove ascoltiamo vecchi brani, poi fatto in versione moderna o un cover o un remix o chissà in quale modo. E se voi avete qualche suggerimento di mandarmi, il mio indirizzo email è fergal@kisskissnetwork.it. Aspetto i vostri suggerimenti e ragazzi vi auguro una buona domenica e appuntamento domani sera alle 21 for I Love America e domenica prossima alle 16 for Remake. Bye bye, sono le 18.